Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Il sorriso sdentato dei nostri bambini. Basta un sorriso sdentato per iniziare bene la giornata o per rappacificarci con una giornata che magari è nata un po' storta. E di sorrisi sdentati allora parliamo oggi di primo mattino insieme ad una grande esperta che è già in linea con noi, la professoressa Giovanna Garattini, medico specialista in odontoiatria e ortodonzia, di cui è docente anche all'Università di Milano. Professoressa, buongiorno. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ebbene sì, mi occupo di dentature. Di dentature e di dentature. Anche di sorrisi sdentati. Assolutamente. Che sono così carini, che sono così carini. Allora, prima di parlare di dentini, professoressa Garattini, i dentini cominciano a formarsi quando il bambino è ancora nella pancia della mamma, verso il secondo, terzo mese di gravidanza. Quindi io vorrei chiederle di dare subito un consiglio alle mamme in attesa. Ma dunque, le mamme in attesa non devono fare un granché per i denti dei loro bambini. Assolutamente sarà il ginecologo che le segue a prescrivere dei composti multivitaminici che contengono anche fluoro. Se il fluoro passi la barriera placentare non è assolutamente ancora conosciuto, male non fa, quindi conviene assolutamente assumerlo durante la gravidanza affinché si vada a depositare a livello dello smalto dei dentini che poi eromperanno, cioè fuoriusciranno durante la vita extrauterina dei bambini. Certo. Allora torniamo a loro, ai nostri bambini, ai loro sorrisi dentati. Professoressa Garattini, quando iniziano a spuntare i primi dentini? Immagino non ci sia una data precisa, ma un periodo. Esatto. Allora, teoricamente la letteratura indica nei 6 mesi l'epoca di eruzione dei primi dentini, ma non c'è processo così stravagante come l'eruzione dei denti da latte. Quindi diciamo che può essere fisiologico dai 4 mesi addirittura fino ai 12 mesi e oltre, non c'è una regola precisa. Certo che un ritardo comporta ansia da parte delle mamme che subito si precipitano temendo di avere dei bambini veramente totalmente sdentati. Ma una volta spuntati, professoressa Garattini, anche se sono da latte, vanno curati. Esattamente. Non solo vanno curati, ma bisogna cominciare a pulirli correttamente da quando spunta il primo dentino da latte. Non è una cosa molto semplice, però bisogna mettersi, i genitori devono badare all'igiene dei denti dei loro bambini. E questo fino a tarda età, perché un po' i bambini non hanno questo interesse particolare per l'igiene. A volte la sera si assonna e lavarsi i denti diventa, come dire, una manovra non tanto gradita e poi non hanno una manualità sufficiente a garantire una buona igiene orale. Ma all'inizio, quando sono piccoli, la mamma o il papà li puliscono dentini, il dentino e le gengive con, esatto, magari con una garzina. Poi questi bambini, insomma, non sarà una cosa molto interessante, ma devono imparare a lavarsi i denti, magari con l'aiuto della mamma e del papà vicino, magari si inventano le filastrocche, però alla fine, quali sono i suoi consigli, professoressa? Il mio consiglio spassionato ai genitori è di renderli autonomi su tante cose, la doccia e quant'altro. Sui denti non pensare che possano diventare totalmente autonomi. Se un bambino non si lava i denti, il rischio sono le carie e le malattie alle gengive, quindi la posta in gioco comporta da parte dei genitori un'attenzione particolare all'igiene dei loro bambini. Io ai miei pazienti suggerisco di andare avanti a lavargli i denti fino ai 18 anni, ovviamente una battuta, però non sempre questa battuta è fuori luogo. Senta, dentifricio? Il dentifricio va utilizzato. Ci sono dentifrici a concentrazione di fluoro differente in base all'età dei bambini, ma ormai si trovano da tutte le parti, non solo in farmacia, al supermercato, vengono indicate il dentifricio deve contenere fluoro, anche perché ad oggi non vengono più somministrate compresse o gocce di fluoro come facevamo in un lontano passato, e quindi il bambino, se non assume il dentifricio col fluoro, vuol dire che non ingerisce nessuna quantità di fluoro e i denti non sarebbero protetti. Il problema delle carie dei denti è un problema che, nonostante tutte le campagne, nonostante tutte le attenzioni, le informazioni, continua. E il dente da latte è molto importante perché è una guida per il dente permanente, che succederà quando il dente da latte viene sostituito dal dente permanente. Perdere precocemente i denti da latte vuol dire anche creare i presupposti per l'insorgenza di una malocclusione. Quindi un bambino che teoricamente potrebbe avere una dentatura regolare avendo i suoi denti da latte, perdendo i denti da latte può andare incontro a delle problematiche malocclusive, quindi necessità di apparecchi che diversamente avrebbe potuto fare a meno di avere. Professoressa, lei mi ha detto malocclusione, mi è subito venuto in mente il problema del ciuccio o del dito. Il consiglio è, entro i 3 anni, eliminare la parafunzione succhiamento, sia essa legata al ciuccio o al dito o a oggettistica varia. È chiaro che mentre il ciuccio è facile da eliminare perché si butta via, allora magari il genitore passa delle notti insonni, ma poi il bambino si rassegna alla presa del ciuccio, col dito è un po' un problema più serio, perché okay, il dito non si può tagliare, quindi contrastare l'abitudine del succhiamento del dito è veramente un'impresa titanica, anche per noi che, come dire, siamo abituati a convincere i bambini, ma davanti al dito è veramente battaglia difficile. Sì, quasi persa, ma ce la faremo. E poi, mi permetta Nicoletta, certo, io dico sempre anche ai genitori disperati perché questi ciucciano, di denti storti alla fine non è mai morto nessuno, quindi per carità è bello avere i sorrisi regolari, però insomma non è che con un sorriso non regolare si perda la vita o la qualità della vita stessa, insomma. Abbiamo parlato di dito e di ciuccio, ci sono dei bambini che di notte fanno rumore sfregando i denti. I genitori si chiedono se è un segnale preoccupante, se è da riferire al medico, se è qualcosa di transitorio. Allora, il digrignamento nei bambini è molto frequente e viene considerato fisiologico, a differenza dell'adulto che può essere invece parafisiologico. Invece nel bambino il digrignamento, qualora presente, tende spontaneamente a ridursi nel tempo fino a scomparire, e non è un segnale di disadattamento, di stress, di altre problematiche, è semplicemente una loro modalità nell'ambito del percorso formativo delle articolazioni, quindi non tranquilli, è da considerarsi. Perché tranquilli, sono dei fanno solo rumore, sono dei personaggini. Professoressa, proprio ultimissima domanda, quando portare il bambino dal dentista per la prima visita e in tempo di Covid, è sicuro? Allora, domanda molto complessa, cercherò di riassumere il concetto. Allora, il bambino va portato sicuramente qualora qualcuno, che sia il genitore o il pediatra, ravvisino delle indicazioni a farci vedere i bambini. Ma se un bambino è bello, sta bene, non ha problemi, i genitori lo lavano e quindi lo controllano che non abbia le carie, direi che intorno ai 5 anni è un'età sicuramente favorevole, salvo che ci siano problemi, certo, specifici o che il bambino abbia subito un trauma e quant'altro. Nel periodo Covid certamente i genitori temono di portare i bambini dal dentista, però io mi sento di rassicurarli, perché con le nostre organizzazioni, con i consigli che ci vengono dati, le linee guida ministeriali, io ritengo che contrarre il Covid in uno studio odontoiatrico attento sia praticamente impossibile, perché viene misurata la temperatura, spesso anche la saturazione di ossigeno, ci sono tutte delle misure che vengono assunte con molta precisione, quindi direi che i genitori possono stare tranquilli a portare il bambino dal dentista qualora certamente ci sia un'indicazione per portarlo, ecco, certo, magari una visita di controllo, fermo restando che comunque devono prendere magari i mezzi pubblici e quant'altro, forse è meglio rimandarla, ma per, diciamo, una routine di seguire un apparecchio, certo, o